In cima al mio mucchio di risposte ho finalmente trovato una domanda e devo dire che è un giochino che funziona, perché combacia quasi tutto a perfezione. Le domande hanno gli occhi un po' più verdi e gli orizzonti un po' più ampi dei miei, e forse sono solo un po' maleducate, perché quando arrivano non bussano mai. Questi occhi quindicenni a metà strada tra una truffa e una mezza garanzia di trovarci sempre una risposta, una canzone, una stanza, un po' di malinconia. Questi occhi già scartati troppe volte ti sembreranno forse di seconda mano, ma nel fondo del profondo ciò che resta, come sai, è sempre stato e sarà sempre tu. E nel buio dei parcheggi a casa tua la gente la sera accosta e fa l'amore con i cuori messi in fila nella notte, a rubarsi ancora un poco di poesia. E al mattino ciò che resta è un uomo solo che insegna ai suoi fantasmi a guidare più veloce. Le sue ali appese a un chiodo ogni tanto fanno male, però in fondo non ci pensa quasi mai. E ora il vento di settembre accarezza dolcemente i miei ricordi, nei tuoi capelli rossi. E se non fosse che un po' me ne vergogno, potrei anche dirti che sono così felice. Quanta gente si è fermata un po' più indietro, quanti sono che ancora muoiono in trincea, nel dolore del bisogno degli altri e nel vuoto del fantasma di un'idea. Ma stasera, come vedi, ho già scelto e le mie armi sono tutte qui per terra. Mi hanno detto, fratello, mani in alto, tu non eri quello contro questa guerra. Hai ragione, caro amico, e mi vergogno, perché in effetti in coerenza vado male. Tu la vita non la scrivi, ma la vivi, e io la scrivo, ma non la so campare. E in effetti ho qualche amico che non torna e due o tre amori persi per la strada. Puoi vederli a una panchina di gennaio che discutono di me e della mia vita. Puoi trovarli a sera tardi in osteria, ubriachi del loro buon amore. Si incupiscono soltanto qualche volta e soprattutto se mi sentono cantare.